cose che non vedi nella gente, ferite aperte nascoste sotto pelle, cicatrici di una vita passata, di chi ha dato troppo amore alla persona sbagliata. E torno a casa dopo una lunga giornata, fisso le pareti e penso a tutto ciò che manca. Le foto di quella vacanza fatta insieme in un paese troppo grande da vedere in una settimana. Odio tutto in questa stanza, è una terra desolata che sembra il Sahara. E basta poco per accorciare la distanza, certe volte basta una telefonata, ma questa volta ha detto basta, ha detto solo basta. Eri tutto, ora sei niente di speciale. Butto tutto ciò che ci rimane, tra la TV, i film di Hollywood e le notizie dei giornali. Eri tutto e ora sei niente, niente di speciale. Ogni persona al mondo ha una parte speciale nascosta dentro di sé che mostra solo alle persone giuste. Sono giorni che cerco e mi guardo dentro, e l'unica cosa di speciale che ho trovato sono gli attimi trascorsi con te. Ci sono cose che non vedi in me, questa casa non sembra la mia. Potrei buttare via tutte le nostre cose, ma per ricordarti non mi serve una fotografia. Ma questa volta basta, non so più fingere. Sto sistemando i miei ricordi, scusa per il disordine. Ora ho una voce in testa che ogni giorno che passa mi ripete che tu eri l'unica guerra che non avrei dovuto perdere. Eri tutto, ora sei niente di speciale. Butto tutto ciò che ci rimane, tra la TV, i film di Hollywood e le notizie dei giornali. Sei niente, niente di speciale. Ora sei niente, niente di speciale. Ora sei niente, niente di speciale. Sto riscrivendo il mio futuro e non so dove andrò. L'unica cosa certa è che devi lasciarmi andare. Butta ciò che ci rimane, anche se mi farò del male. Scusa, ma per me non sei più niente di speciale. Ehi tu, ora sei niente di speciale. Butto tutto ciò che ci rimane, tra la TV, i film di Hollywood e le notizie dei giornali. E spengo la TV perché non ci sei più, e siamo usciti dai mondiali. Eri tutto e ora sei niente, niente di speciale. Non resta niente, niente di speciale.